Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Oggi, prima che di Coppa Italia, di vigilie, di affari di mercato veri e soprattutto presunti, parliamo di parole. Le parole del calcio, la mutazione del linguaggio che accompagna e sottolinea il famoso gioco più bello del mondo. Ne parliamo con un giornalista e scrittore che di parole vive, studiandole, smontandole, poi rimontandole in continuazione come un giocoliere, forse come un prestigiatore, in ogni caso amandole, questo si capisce benissimo. Benvenuto a Stefano Bartezzaghi. Sì, buongiorno. Buongiorno caro, dunque io avevo messo da parte una pagina pubblicata da Repubblica ai primi dell'anno, il titolo era Parla il pallone e il catenaccio che è il seguente: il palo non si fa più la barba ma c'è autostima tra le linee, ma aveva causato una crisi di invidia per il titolista di Repubblica, perché secondo me ha titolato davvero in una maniera perfetta. Non sempre accade, non dappertutto. Sì, è stato un po' un divertimento che ci si è presi in una lunga pausa del campionato e mi hanno consultato per dire: ma cosa ne pensi del linguaggio che si usa oggi nelle telecronache? E insomma, forse pensare è anche, diciamo, una esagerazione, però qualcosa è saltato fuori, ecco, perché si fa notare questo linguaggio che si usa per trasmettere un po' dell'epos calcistico. Il linguaggio dei telecronisti, per esempio, tu hai notato che si è evoluto e il gergo del passato è stato sostituito, leggo dal sommario, poi andremo sugli esempi concreti, da stereotipi che sono però, secondo te, altrettanto astrusi rispetto a quelli del passato. Allora, io ti faccio sentire un primo frammento di una telecronaca storica, di una voce inconfondibile come quella di Bruno Pizzul. 3-1! Grandissima azione in contropiede del Napoli, vedete Maradona, tocco per Careca, il controllo, il pallonetto delizioso, Immel è fatto fuori, Careca segna il terzo gol per il Napoli. Siamo al pallonetto, come abbiamo potuto riascoltare, Stefano. Pallonetto che nel giro di qualche anno diventa qualcosa di più, diventa per tramite di Totti, diventa qualcosa di un pochino diverso. Sentiamo una telecronaca più recente. Parte Mascara, il cucchiaio a rete, Mascara, 29 gol, record della storia del Catania in Serie A, eguagliato Memmo Prenna, il Catania in vantaggio 2-1. Da pallonetto a cucchiaio, che genere di evoluzione è? In questo caso è un'evoluzione dal lessico tecnico, perché il pallonetto è proprio viene soltanto dal linguaggio calcistico, a un lessico più, un gergo più anche popolare, perché invece cucchiaio è evocativo, no? Sì. Rimanda a un'altra realtà, e questo è proprio un caso, mi pare, di rinnovamento pure crudo, nel senso che chiamare il pallonetto, la cosa fatta da Totti, sembra, insomma, un richiamo a un calcio più antico, mentre io, insomma, mi pare di ricordare, perché poi appunto non è che io me ne intenda così tanto, però, che il cucchiaio di Totti venne fuori soprattutto nella situazione di un rigore in cui, certo, appunto era un modo molto molto innovativo, ecco, di battere, e anche rischioso di battere i rigori. Ecco lì che appunto si è sentita l'esigenza di un nome nuovo. Tu fai alcuni esempi di ribattesimi, non so come dire, per cui il più classico è certamente quello che il contropiede, che ha fatto diventare ripartenza il contropiede, e chi ha sintetizzato in tapin quello che una volta si diceva ribadire in gol. C'è differenza tra queste due situazioni, però? C'è sicuramente differenza. Tra l'altro mi pare che tra contropiede e ripartenza c'è anche una differenza ideologica, no? Nel senso che il passato era, cioè, è proprio la ripartenza un contropiede travestito che non vuole più essere tale, mentre il tapin viene dal basket, direi. È una delle innovazioni in cui il linguaggio si è fatto più tecnico, ma non cancella, cioè, anzi forse cancella in realtà l'assurdità del ribadire in gol, perché questa cosa che uno ribadire vuol dire quello, no? Ripete in gol, ribatte, ma in che senso ribadire? Certo, è una cosa che io non ho mai capito, e magari abbia, cari amici appunto che fanno questo mestiere, nessuno è mai riuscito a spiegarmelo. Certo, se non era gol prima come fai a ribadire? No? Che ribadire è? Qui abbiamo migliorato, dici tu, abbiamo migliorato mutuando la basket, e fai altri esempi da questo punto di vista, e cioè il concetto di la parola break, la parola pressing, questo famoso tap-in, è un genere di linguaggio che arriva per l'appunto dal basket, che comunque insomma è una terminologia anglosassone, e rompe con quella tradizione breriana che per tanti anni ha comunque orientato il linguaggio del pallone. Sì, perché appunto Brera, io ricordo quando raccontava, diceva, io quando ho incominciato ho dovuto proprio inventarmi un lessico tecnico che non esisteva per riferirmi a un tipo di azione, un modo di giocare, uno schema tattico, e lì appunto gli aveva ispirato delle grandissime invenzioni che poi sono anche proprio entrate molto spesso addirittura nel dizionario italiano. Alcune di queste sono per esempio insospettabili, per esempio intramontabile, che non è che sia una parola molto tecnica, è attribuita a Gianni Brera perché sembra una parola del 400 invece una parola del 1950, penso riferita all'epoca a Bartali, per cui allora questo linguaggio un po' anche fatto in casa, un po' artigianale, diventa più tecnico, e questa è la prima tendenza, però ci sono delle eccezioni, e secondo me c'è delle eccezioni di linguaggio che nelle nuove telecronache io ho imparato dei termini come spizzare, termini che invano ho cercato sui vocabolari, e poi soprattutto il piattone. Ecco, il piattone è proprio una cosa da anni 50 che però mi pare che sia diventato dominante soltanto sulla TV satellitare, insomma. Sì, è vero, spizzare è una delle cose più incomprensibili, intraducibili. Un senso potrebbe averlo, ma certo da un punto di vista lessicale meno, molto meno. Non è attestato per ora, penso che sia una voce di derivazione romanesca, ecco, però nel dizionario non è ancora attestato, ma ci arriverà presto perché viene usato ormai in maniera così comune. Cioè, sono molte altre le espressioni e tra poco ci arriviamo. Io vi faccio ancora sentire, prima dell'intervallo, due frammenti che anche in questo caso danno il senso dell'epoca. Il primo è di nuovo di Bruno Piz. Gullit, Van Basten, sono quattro, Dragnuola, Diretti. Beh, Gragnuola di reti, Stefano ci riporta, questo era credo l'89, la finale Coppa Campione del Milan dell'89, sono passati 22 anni, ma Gragnuola di reti ti dà l'idea proprio dell'altro secolo, ma anche più indietro, direi. Sì, perché vabbè, Piso aveva poi questo lessico ricercato, che insomma era ancora la televisione che voleva stabilire un modello linguistico elevato, adesso mi pare che la tendenza si sia invertita. Sì, ecco. Cioè, mo ci hanno rinunciato proprio. Allora facciamo questo intervallo breve per sentire come va sulle strade. Arriviamo a terminologie più moderne, ce ne sono di quelle comprensibili e di quelle meno, ma comprensibili io intendo soprattutto per lo sforzo di cercare un modo di rendere un concetto. Allora, tu scrivi, Stefano Bartezzaghi, è sempre con lui che siamo collegati, ora le punte attaccano lo spazio come eroi di Star Wars o aggrediscono la profondità come i corsori subacquei, questo non rimane davvero. Vocazione altrettanto pugnace dimostrano i telecronisti, non avvolgono più l'ascoltatore in sapienti spire e torniture sintattiche come usavano appunto Bruno Pizzul e alla radio Sandro Ciotti, ma emettono sillabe secche ed esclamative. Tenta, non va. Te ne faccio sentire una di queste non va. Maldini, la sciabolata verso Ambrosini, la torre, c'è Inzaghi, attenzione, Inzaghi, pallonetto! Rete! Rete! Vabbè, allora... Rete! Inzaghi! Dunque, a parte la sobrietà complessiva, direi, no? della sottolineatura. Questa era andata. Sì, ecco. ma questo vale per tutti, no? Perché grosso modo vale per tutti. A parte che torna il pallonetto e non c'è ancora Cucchiaio, ma probabilmente questa era un'esecuzione che ricordava più il pallonetto che non la scucchiaiata, o chiamala come vuoi, è quella sciabolata che io sinceramente da vent'anni mi interrogo di come sia potuta nascere, perché senso ha la sciabolata? È un'evoluzione, diciamo, passando dalle armi da taglio della vecchia staffilata, no, lo staffile sì, era un bastone, e poi c'era la cannonata, e però appunto c'è la sciabolata. Introduce appunto questo senso di taglio, no? È qualcosa che la vedo più come una cosa che procede in diagonale che non come una cosa dritta, quindi che fa anche fa peggio, ecco, proprio rompe, non fa soltanto male, ma proprio rompe la pelle, e anche qui sarebbero facile dei giochi di parole. È l'enfasi, è chiaramente l'enfasi. L'enfasi viene, che è la cosa che serve per partecipare dell'entusiasmo del telespettatore, quindi comunicarlo anche l'entusiasmo del telespettatore che magari lì sul suo divano si addormenta anche un po', è una cosa che si ottiene soprattutto con il tono di voce, però ecco, a volte aiuta anche il lessico con delle vere e proprie esagerazioni che si dicono, anche perché ormai poi rimbalzano appunto, anche un modo per diventare famosi, e che poi molto spesso, e qui insomma purtroppo è un difetto grave secondo me, mutuano il linguaggio bellico, ecco. E questo è un po', insomma, il gusto qui non eccelle. Esatto, era qua che sapevo che saresti arrivato, perché tu alla fine distingui molta della terminologia calcistica, ma non soltanto da tele o radiocronaca, anche quella da carta stampata, che spesso è di gusto anche peggiore, soprattutto nelle titolazioni, anche perché, aggiungo io, ha l'aggravante dell'essere pensata, cioè, mentre parli ti può scappare una cosa, un'espressione, insomma il controllo è una frazione di secondo, una cosa che si scrive, e a maggior ragione un titolo è un pochino diverso da un punto di vista, diciamo, pure etico anche in qualche caso. Comunque tu fai due grandi gruppi di riferimento lessicale calcistico, cioè quello bellico e quello invece a sfondo sessuale. Allora, un paio di esempi dell'uno e dell'altro. Beh, insomma, fermo restando che molto spesso il linguaggio sportivo ha delle radici maschili e maschiliste molto molto forti, sì. Anche se i tempi fortunatamente cambiano anche qui, però queste radici restano spesso visibili, appunto. Guerra e sesso sono le due gruppi di riferimento, i due ceppi, i grandi campi, campi semantici, per cui io appunto i termini bellici, la cannonata, l'assedio, poi a lungo ci sono stati anche missili, certo, missili, bombe sgan, no, la bomba da lontano, il missile da fuori area, sì, dal basket anche la bomba da tre punti, e qui appunto abbiamo già parlato di Gianni Brera, vi parlava della sapienza o la prodezza balistica, sì, per descrivere magari appunto la punizione di Maradona o di Zola o di Platini, e questa è una cosa, forse addirittura anche un termine più recente che è la percussione, sì. Oltre che ai batteristici, ricorda anche un po' l'artiglieria. E però, insomma, poi si entra invece nell'altro campo, soprattutto la penetrazione è una delle. Perché c'è il fallo, sì. Fallo da dietro e via dicendo, però quello è un po' un doppio senso, sì. È un po' una casualità, diciamo, che la lingua offre alla malizia di chi ascolta, però la penetrazione è, cioè non si può non pensarci quando sì, si parla di penetrazione, lì c'è proprio una una evocazione immediata. E del resto, ancora qui Brera diceva che la partita di calcio nella mente maschile fondamentalmente simboleggia la difesa, diciamo, difendere, cioè il portiere sta difendendo la sorella, no? Sì. E invece sta cercando, l'attaccante sta cercando di appunto penetrare la sorella altrui. E questa è una visione un po' tribale, ma forse anche giustificata per quel che ne possiamo sapere. Brera ha scritto, ma non dico libri interi, ma lunghi e lunghi capitoli nel corso della carriera intera, proprio su questo tema. Poi c'era la squadra femmina, l'Italia ha sempre giocato in maniera femmina, no? Aspettando e poi colpendo, insomma. E spesso trovo anche però, Stefano, commistioni tra il linguaggio bellico e quello sessuale. Tu hai detto, ne hai detto uno prima che adesso mi è sfuggito già, ma che dà l'idea di come i confini siano, i concetti siano quei due e il confine ogni tanto diventi labile. Diciamo che la lingua batte dove il dente duole. Eccolo, per cui molto spesso si possono ottenere queste cose, però secondo me il punto è anche quanto ci riposiamo con i luoghi comuni. Sì. Molto spesso le persone, quando appunto dicono sciabolata cioè non è che si rendano proprio conto, perché sono pezzi di linguaggio che noi usiamo in maniera automatica, e delle volte non ci rendiamo neanche conto che magari stiamo dicendo che un missile ha trafitto il portiere, e magari il giorno prima qualche certo. caso di cronaca certo. bellica vera doveva suggerirci un po' di prudenza. No? Perché ecco la bella cosa l'insegnamento di Brera, da cui appunto oggi ne abbiamo parlato tanto, però l'insegnamento vero qual era? Il fatto di pensare continuamente al proprio linguaggio. Allora, quando lui, a proposito di metafore sessuali, lì la metafora non c'è neanche tanto, quando lui parlava della famosa marcatura di Claudio Gentile a Maradona, sì. e diceva che all'inizio gli aveva fatto sentire le ascose negritudini, dopodiché Maradona ci ha visto rosso e non ha più giocato come sapeva. Ecco, l'invenzione, per dire una cosa, alludere a una scena abbastanza volgare e forte, però l'invenzione linguistica, sì. il divertimento che c'era nello scegliere l'espressione, dovrebbero essere di insegnamento, perché a quel punto la cosa volgare non era più volgare, no, ha certo. detto quello che voleva dire e noi non ci siamo scandalizzati. Ascosa negritudine me l'ho scordata, ed è una ascosa leggendaria, è un capitato, diciamo, sì, della sì, nostra sì. educazione. Senti, no, non infierirei invece su aggredire la profondità e attaccare lo spazio, che sono diventati due grandissimi classici, davvero oggi non c'è partita. Attaccare lo spazio. Sì. Lo spazio è una cosa da 2001 di Odissea dell'omonimo. Ma di spazio o di ospizio, se cominciamo a giocare con le parole, perché qualche dubbio ogni tanto mi prende. Io direi che ci avviamo alla conclusione. Ne ho uno da che non ho trovato nel tuo testo, ricchissimo, perché è un mio chiodino, nel senso della ripetizione ad ogni costo, nel senso che uno usa una parola, un'espressione, magari è felice in quel momento, e poi però scatta questo meccanismo imitativo tremendo, anzi devastante, come dicono i telecronisti oggi, ogni due per tre, che è l'espressione da dimenticare. Io penso che la prima volta che si è visto un tiro finito fuori di 25 metri rispetto alla porta, quello che ha detto, non ho idea di chi sia, che quello era un tiro da dimenticare, secondo me ha usato un'espressione abbastanza felice, cioè gli è venuta una discreta battuta. Oggi, quando sentiamo che 15 volte per partita circa quel tiro o quel passaggio, quello che è da dimenticare, secondo me comincia a essere un tantinello noioso. Poi appunto ne stiamo parlando proprio la settimana in cui c'è stata la giornata alla memoria, quindi diciamo, per non dimenticare dovremmo cercare di dimenticare casomai alcuni di questi modi di dire, ma hai perfettamente ragione, ci sono delle battute che la prima volta sono state buone, azzeccate, ci hanno sorpreso, ma anche proprio per la loro novità, diventando meno nuove, diventano anche meno brillanti, ma è perché appunto ci si accontenta, immagino, di quante telecronache che ci sono, poi sempre di più, non si riesce a essere sempre innovativi, e appunto purtroppo il luogo comune ci rassicura. E quindi se, quando ce ne accorgiamo, magari ci vergogniamo di essere della nostra banalità. Però non è facile accorgersene. Ci rifugiamo ogni tanto nelle braccia accoglienti del luogo comune. Grazie Stefano. Ma grazie a te. Quanti messaggi sono arrivati in questo frattempo? Claudio, odio l'ipocrisia nell'evitare termini come fucilato o bomba in corso di guerra per poi riprendere giorni dopo. Ma Claudio, io credo che quei termini andrebbero evitati comunque se applicati al calcio, se ci ragioniamo un po'. E non trovo che sia un'ipocrisia particolare, anche se evidentemente le scelte di linguaggio sono sempre libere. Svirgolare, segnala Alessandro da Vicenza, dice un termine inesistente in realtà, però è onomatopeico, il che significa che rende per l'appunto l'idea. So che lei è allergica ai complimenti, ma non posso che fargliene, eccetera eccetera, scrive Massimo Caci da Piacenza. E ci sono molti messaggi di gradimento per lo sbarco in questo programma di un grande come Stefano Bartezzaghi. E un altro messaggio, il grande Fascetti disse che non voleva parlare di calcio con chi lo confonde con la scherma, e anche questo lo trovo molto carino. Guido da Varese si domanda, e se proibissimo l'aggettivo importante, Guido, sarà sempre troppo tardi, non c'è dubbio. D'altra parte questa materia è sterminata, e quindi non poteva in un quarto d'ora, 20 minuti, Bartezzaghi demolire tutto il lessico attuale, semplicemente lo ha rivisitato, lo ha interpretato. Per me, amante di ossimori, chiasmi, figure retoriche, una trasmissione col grande Bartezzaghi è ossigeno puro, scrive Franco da Milano. E poi altri segnali di apprezzamento, sino a questo che arriva da Francesco da Milano, che suona così: da Pizzul ai telecronisti odierni è come passare da Paolo Conte ad Apicella. E mi sembra un po' la sintesi, no, di quello che si è detto sinora, anche se avrete notato che poi Bartezzaghi non era particolarmente critico col rinnovamento del linguaggio, lo era con un certo genere magari eccessivo di rinnovamento. Ci torniamo con altre notizie, con i vostri interventi in diretta, subito dopo aver sentito come va sui mercati. Fatico a orientarmi tra i tanti messaggi arrivati dopo l'intervento di Stefano Bartezzaghi. Alfredo da Torino scrive: ricordo un'espressione del grande Brera, portiere uccellato. Verissimo, lo usava abbastanza spesso Brera questa frase. E poi altri ascoltatori che domandano, dice, ma è il tiro telefonato? Beh, in effetti il tiro telefonato non è male, però anche lì ha un senso, risale al passato. So che molti di voi, mi segnalano dalla regia, si sono prenotati per intervenire sul tema. Allora facciamo così, per non sacrificare del tutto l'attualità, sentiamo due o tre voci di vigilia e poi riparliamo dell'argomento del giorno, in particolare con i vostri interventi. Allora, Leonardo sulla vigilia di Napoli-Inter. L'ultima partita del Napoli credo che abbiamo fatto bene, anche con noi, credo che noi abbiamo fatto una grande gara contro il Napoli in casa, sicuramente credo che sarà un po' simile come squadra che affronteremo. Dopo si trova sicuramente un grande ambiente, per quanto mi hanno detto, un grande ambiente a San Paolo, un'atmosfera sempre straordinaria, e mi sembra anche con un grande pubblico, questo porta sicuramente grande attenzione, quella è una cosa importante, stiamo parlando di un quarto di finale di Coppa Italia, e porta anche responsabilità, diciamo, per Napoli, quindi sarà una partita importante. Il contrario adesso è Mazzarri, che si esprime sull'Inter. Spero che i miei giocatori, ecco, lo traducono in energie positive, come stanno facendo fino ad ora. Penso sia anche uno sprono mentale, di orgoglio, che probabilmente manderò in campo gli stessi che hanno giocato a San Siro, proprio contro l'Inter. La stessa squadra, se posso. Bisogna cercare di fare una partita perfetta per poter pensare di passare questo turno. Ottima idea quella del tema di oggi, scrive Paolo Gaggino, mi sono collegato solo ora. Mi dite cosa significava dal campo per destinazione, molto usato in telecronache storiche. Sì, era una terminologia che usavano spesso Ameri e Ciotti, per esempio, quindi risaliamo di parecchi anni all'indietro. Il campo per destinazione è quella parte di terreno che c'è al di là della linea di gioco e prima della cancellata, piuttosto che della fossa, piuttosto che della fine del campo. E allora spesso, insomma, veniva chiamato così, non saprei dirle la l'origine della terminologia. Allora, tre ascoltatori, poi la vigilia di Sampdoria-Milan, che tra l'altro è, come dire, impreziosita dalle dichiarazioni di stamane del presidente Garrone. Antonio ha chiamato da Pisa, buongiorno. Buongiorno, l'argomento effettivamente è molto interessante. Io sono un nostalgico di Ciotti e volevo proprio raccontare alcune similitudini che ogni tanto Ciotti tirava fuori dal cilindro, che erano bellissime per presentare la partita, no? Per esempio, una volta disse, non so, a Torino il cielo è cupo come un film polacco, oppure il sole, la giornata è luminosa come un sorriso di Mara Venier, oppure... Beh, qui era già nella fase discendente, evidentemente, perché Ciotti è stato un grande... un vento perentorio come l'esternazione di Cossiga, mentre Cossiga appunto si scatenava, ma la più bella secondo me rimase quella in cui disse la temperatura è tiepida come la passione popolare per la musica dodecafonica. Beh, effettivamente. Quella rimase una perla. Tenga conto, dica. Ora un pochino, oppure ora un pochino cerca di imitarlo un po' Emanuele Dotto, che domenica ha detto una cosa abbastanza carina, non mi ricordo che partita avesse, però è finita 0-0, ha detto: partita all'insegna di Molière, avara nelle emozioni, nel gioco e nei gol. Sì, Antonio, io suggerisco sempre di diffidare degli imitatori, adesso senza fare casi personali, né tanto male né tanto meno professionali, evidentemente. Però io, insomma, ricordo che Sandro Ciotti, che ho avuto il piacere di conoscere e di frequentare di persona anche abbastanza a lungo, nasceva nipote di Trilussa, insomma, c'erano dei quarti di nobiltà, non so come dire, no? Da un punto di vista culturale, lessicale, da tanti punti di vista. E quindi credo che un telecronista sportivo e ogni tanto musicale dello spessore culturale di Sandro Ciotti fosse, non possa essere un parametro di riferimento per i discendenti, perché era troppo oltre lui, a parer mio. Giuseppe Bari, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini, che bell'argomento oggi, bellissimo, stupendo. Io purtroppo ho potuto ascoltare solo una piccola parte della telefonata che ha fatto, non ricordo con chi, e il resto della trasmissione non ho potuto sentire per motivi di lavoro, però complimenti veramente per l'argomento della trasmissione. Io non so se ripeterò o se qualcuno ha già ricordato alcuni termini che io ho 34 anni, però c'è stata un'evoluzione da quando ero io adolescente ad oggi del linguaggio linguistico calcistico incredibile. Io per esempio ricordo la puntata, ormai la puntata non si dice più, si dice rimessa dal fondo, sì. Oppure il traversone. Il traversone, non male il traversone. Perché quest'altra chicca, carica al portiere, ormai non si usa più, si usa fallo sul portiere, sì. Insomma... veramente complimenti. Caricava, è vero, una volta si caricava il portiere, questa piacerebbe molto a Bartezzaghi per una disamina. Però guardi Giuseppe, i vostri interventi in diretta, ma più ancora come mole il numero impressionante di messaggi con cui, ripeto, sto provando, ma è impari la nota, a misurarmi, insomma, mi hanno già suggerito che Stefano Bartezzaghi tornerà qua presto e tornerà magari per rispondere ad alcune di queste vostre osservazioni e di queste vostre domande. Grazie. Matteo da Pescara dice: lei non può non ricordare la più celebre di tutte, Ricciotti, quando diceva ventilazione inapprezzabile. In effetti, espressione, non so, la possiamo chiamare barocca, poi la facciamo definire a Bartezzaghi, però espressione in ogni caso stupenda. Il campo per destinazione, mi ricordo Daniele da Padova, è scritto nel regolamento, cioè questa definizione è presente nel regolamento al niente meno che all'articolo 1. Vede che mi intendo più di come dire, glottologia sportiva che non di regolamenti. Daniele da Padova è molto divertito, per esempio, dall'espressione giocare con la sigaretta in bocca. Questa è anch'io l'ho sempre trovata divertente, perché dà l'idea di un calciatore che può permettersi, no? di giocare a souplesse. Questa era un'altra delle finezze di Brera, anche se questa è un'espressione francese in gran voga allora e in gran voga oggi. Torniamo un attimo alle vigilie, sentiamo quella di Allegri con il centrocampo nuovo in vista della trasferta ormai imminente, perché giocano alle 17:30 a Marassi. Abbiamo questi due nuovi acquisti che potrebbero scendere in campo, uno sicuramente, e l'altro al 90% scenderà in campo. Riusciamo a centrocampo a sistemarsi abbastanza bene. Centrocampo nuovo senza praticamente provare niente perché non abbiamo tempo per farlo, però sono giocatori di grande esperienza e di grande tecnica che credo riescano lo stesso ad integrarsi e a far bene. Ma con i centrocampisti quest'anno abbiamo fatto diversi gol importanti. Normale che Pamolo è un giocatore importante, di caratura internazionale, che quindi per noi è un ottimo acquisto. Due volte importante, l'avete notato, nel giro di 3 secondi, ma d'altra parte, ragazzi, questi parlano tutti i giorni, cioè è questa routine che inevitabilmente, no? Porta alle ripetizioni e a luogo comune, soprattutto di fondo, ma questo non riguarda Allegri, riguarda chiunque. Andrea da Como dice: credo di aver sentito ogni tanto anche la parola cecchino. Sì, sentita e letta, se è per quello, e fa parte di quelle terminologie, per carità, che ci possono stare, che sono immaginifiche, però che poi arrivano certi momenti in cui, insomma, magari evitarle può essere meglio. E non mi pare che per questione di opportunità, ma soltanto di buon gusto. Sentiamo perché Garrone, il presidente della Sampdoria, ha annunciato stamane che non saluterà Cassano. Direi, anche le recenti battute sue in televisione quando è stato presentato, che avrebbe detto, io non ho sentito, se avessi saputo che andavo al Milan avrei insultato molto prima il presidente Garrone. Una cosa del genere non merita più alcuna considerazione e un minimo di sentimento, di considerazione, come avevo forti sentimenti nei suoi riguardi, ho cercato dell'aiutarlo, non esiste più. Beh, dura ma credo non campata in aria. Torniamo alla nostra terminologia, che tutto sommato, almeno per oggi, è un po' più divertente. Lui scrive da Treviso, e quella del tiro evviva al prete, no caro ragazzo, era evviva il parroco, evviva al parroco, era l'espressione corretta, quando si calciava un pallone a caso, insomma. Qualcuno ricorda Beppe Viola, è inevitabile. Beppe Viola era un grande come dire, giocatore di parole, ma soprattutto era un grande per la sua ironia con la quale già allora sfotteva per esempio i colleghi secondo i quali il pallone faceva la barba al palo, ecco, uno dei grandi classici del passato. Mentre Paolo da Ivrea fa notare che oggi si usa fare a sportellate e si domanda quale sarà il prossimo neologismo dei telecronisti moderni. Non c'è tempo per gli ascoltatori. Non c'è tempo, cioè ce ne sarà di nuovo tra poco, ma insomma preferirei rispettare, per una volta che me ne sono accorto in tempo, rispettare esattamente al secondo le notizie dalle strade. Due messaggi al femminile. Il primo è firmato Marina da Milano e dice: scusi l'ignoranza, ma io sono ossessionata dall'espressione centromediano metodista. Ma chi è costui? Il cappellano di spogliatoio? No Marina, questa è una questione di moduli. Una volta si giocava o col sistema o col metodo, e nel metodo era prevista la figura di un centrocampista più che un centromediano, che si piazzava, adesso semplifico, si piazzava grosso modo al centro del campo in posizione arretrata a protezione della difesa. E ogni tanto questo termine si usa ancora oggi per qualche squadra che si schiera per esempio avendo un giocatore messo in campo a quella maniera. Quindi questo nasceva dalla necessità di descrivere una situazione tattica nell'ambito della formula del metodo. Non so se le ho peggiorato l'emicrania, spero sinceramente di no. L'altra invece era Lori da Milano scrive: il bello è che questa famosa sciabolata ogni tanto è pure morbida. In effetti anch'io ho sentito 2 o 3 volte sciabolata morbida e effettivamente qualche attimo di destabilizzazione l'ho avuta. Sentiamo cosa ha preparato per il 26 gennaio Nicola Filippone. Sembra ieri. 26 gennaio 1977. Dura 45 minuti l'avventura in nazionale di Luciano Castellini, portiere del Torino campione d'Italia in carica. In un'amichevole a Roma contro il Belgio, vinta dagli azzurri per 2-1, Castellini subentra nel secondo tempo a Zoff. Sarà proprio l'inamovibile Zoff a precludere una carriera in nazionale al Giaguaro, uno dei migliori portieri dell'epoca. L'unico gol subito da Castellini in nazionale è stato realizzato da un collega, il portiere belga Christian Piot, a segno sul rigore a 5 minuti dal termine. A parte qualche esagerazione, scrive Andrea, non vedo nulla di male nell'inventarsi nuovi termini e nuovi modi di dire. D'accordissimo con lei, Andrea, infatti ce ne sono alcuni di azzeccati. Non era una critica, quell'articolo di quel saggio, direi, di Stefano Bartezzacchi, da cui poi è nato lo spunto per la puntata di oggi. Non era affatto una critica, era una messa a punto rispetto ai tempi e un inevitabile confronto con quelli passati, dove però non mancavano anche allora gli sfondoni o comunque certe espressioni discutibili. Simone ha chiamato da Ancona, buongiorno. Buongiorno, io solo per ricordare questa cosa qua, che è una delle prime telecronache di Piccinini, che praticamente proprio della penetrazione, non mi ricordo se era il Milan o l'Inter che giocava con una squadra bulgara, aveva un giocatore che si chiamava Penev, quindi mi ricordo la comica poi il giorno dopo sui giornali, perché questo aveva messo insieme le due cose, cioè, grande spazio per la penetrazione di Penev. Non c'è male, questa fa parte delle disavventure sempre in agguato. E tra l'altro era un signor centravanti Penev, non le dico il cognome di un giocatore del Fiorenzuola allora, e poi della San Margheritese, che fece una grande carriera e che un giorno segnò 4 gol, e non le dico il titolo di credo Tutto Sport dell'Indomani. Bravissimo. Siamo in fascia protetta e quindi, però lei ha capito, chi non l'ha capita pazienza, ma insomma. Simone, la ringrazio. Estrae il coniglio dal cilindro, ricorda Daniele da Como, come un'altra delle espressioni usate, ma ce ne sono tantissime che certamente la memoria non vi manca. Pizzolo usava spesso il termine ciabattata, ricorda Paolo da Crema, è verissimo. E un altro ascoltatore che non si firma dice: ricordo la foglia morta. E le ragnatele tolte dal 7. Beh, le ragnatele tolte dal 7 è un'immagine, è un'immagine per dare l'idea della precisione di quel pallone che si infila esattamente tra il palo orizzontale e quello verticale, quindi tra palo e traversa. Il cross, non tanto il cross a foglia morta, la punizione a foglia morta fu un'espressione coniata per le punizioni di Mariolino Corso, ma ancora se ne vedono oggi, quelle calciate davvero così morbide che la palla quando scende così dolce che sembra una foglia che volteggia, che si è staccata dal ramo e che volteggia prima di posarsi a terra. Leonardo da Firenze, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Ancora su Brera, ora non tanto per un termine, ma per una caratteristica che aveva lui di volare alto anche quando stava parlando, come in questo caso, di Libera. Ricorda Libera, quella punta che ebbe molta fortuna. Che arrivò da Varese all'Inter. Esatto, all'Inter non ebbe molta fortuna. E ricordo un articolo di Brera, sicuramente sul Guerin Sportivo, sarà stato il 77. Libera voleva 50 milioni di ingaggio per firmare di nuovo il contratto, una cifra immensa all'epoca, e dopo aver parlato delle titubanze di Fraizzoli, presidente dell'Inter di allora, Brera, ricordo benissimo, scrisse che tutt'al più Libera gli ricordava Libera nostra malo di Luigi Meneghello, cioè uno dei romanzi più importanti, insomma, del Novecento italiano, quindi per dire come, insomma, non perdesse occasione anche per ricordare, per citare, per magari insegnare, far sapere a qualcuno che c'era un bel libro da leggere, insomma. Certo. Adesso Meneghello era un suo grandissimo amico. Io ho una foto di loro due a casa dove entrambi hanno un calice di vino in mano che è più grande di loro. Leonardo, grazie. Simone da Pisa ricorda che una delle più grandi espressioni di Brera era il verbo maramaldeggiare. All'università, ricorda per l'appunto questo ascoltatore, il professore ci intrattenne per un'ora per spiegarne l'etimologia, partendo proprio dall'uso che di questa espressione faceva Brera applicandola al gergo calcistico. Maurizio ha chiamato da Grosseto. Sì, buongiorno. Dica. Mi riferivo appunto a queste terminologie nuove dei nostri commentatori televisivi. Il male è abbastanza limitato, no? Quello che io sto notando, specialmente su chi commenta Sky, è questo modo di non far vedere la partita, no? E cioè, in pratica, durante tutto lo svolgimento dell'incontro, e si parla di tutt'altra cosa, cioè i gossip, la storia del giocatore, cioè tutti i pettegolezzi che se io mi rigiro e guardo la televisione con le spalle alla televisione, cioè non si capisce se si gioca a ping pong tra l'altro un'altra cosa, questi signori tipo il Caressa della situazione, cioè no, io non lo so, ma sono tutti laureati in medicina con 2 o 3 specializzazioni in ortopedia o in diagnostica, perché come un giocatore si fa male l'hanno già sentenziato, cioè si è rotto il crociato, no, con il caressamento del collaterale, Maurizio. Maurizio, a lei piace. È una cosa veramente. Sì, supponiamo che qualcuno esageri di questi telecronisti, però anche a lei non dispiace esagerare, dica la verità, perché insomma non è proprio così. Poi è vero che ogni tanto ci sono dei passaggi fastidiosi. Lei ha parlato dei telecronisti di Sky, io ce li metterei tutti. Trovo che quelli di Sky abbiano lo sforzo di un linguaggio più moderno, a parte una competenza mediamente superiore a parer mio. Comunque di cercare un linguaggio moderno, di cercare nuove strade, poi alcune si rivelano felici, altre meno. È come se ogni tanto il navigatore si inceppasse e ti portasse da qualche parte dove poi non funziona bene, ma insomma sono tentativi, insomma. E poi ne arrivano tante. La Palombella, la squadra femmina può giocare una partita maschia, domanda un ascoltatore, che non è male nemmeno questa. Qualcuno ricorda caracollare sulla fascia, ho l'impressione che un giorno o l'altro ripartiremo da qua con l'aiuto e la compagnia affettuosa di Stefano Bartezzacchi. Per il momento grazie a tutti, a Roberto Scaltritti in regia, a Franco Piantanida in redazione. Buon pomeriggio.